edizione. Ed è lo Zapping TV la copertina questa mattina di prima edizione. Ieri sera in TV l'ultima puntata di Ballarò, ospite c'era Roberto Benigni. E quindi io ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di questa ultima puntata di Ballarò e speriamo di rivedersi alla prima. Un saluto agli ospiti, che non posso vedere chi sono, e quando hai bisogno ci vediamo. Un grande abbraccio, ciao a Ballarò. E beh, bello Ballarò, una cosa spettacolare. Gliela chiudono. Ah, sì? Sì, chiudono. A settembre? Chiudono Ballarò, no, chiudono proprio per sempre, lui non lo sa ancora, ma il nuovo CDA Rai ha deciso che, altro che Santoro, cioè Floris è proprio il più violento. Reazionario e più proprio una persona proprio cattiva, con delle manie anche fisiche tremende, si ignuda per strada, fa delle cose, quindi lo chiudono. Roberto Benigni ieri sera in TV è un po' il tormentone di tutti gli anni. Cosa ritroveremo a settembre in TV e non solo? Vi faremo sentire più avanti altri stralci allora magari di Zapping TV. Ora però è il momento delle prime pagine dei giornali. Eccoci qui allora con le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo anche questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Ormai manca pochissimo alla sfida Italia-Germania in tutti i sensi, quella politica e quella sui campi di calcio dell'Europeo. Allora la Gazzetta dello Sport, vediamo chi ha più birra. Eccolo il titolo di questa mattina. Domani la semifinale Germania-Italia, parla Pirlo, l'avete sentito. Vincere il pallone d'oro è più facile, fare il cucchiaio, dice Pirlo. Gli azzurri pesano i supplementari, due giorni di riposo in meno, però i titolari tedeschi hanno giocato di più. Eccola la polemica, ci mancava la vigilia di questa semifinale, ma ormai è dichiaratamente questa il tempo del riposo. E allora la lezione di Prandelli, Luigi Garlando l'analisi in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Non ci hanno teso agguati a metà del cammino, il calendario dell'Europeo era noto da tempo e ha bene fatto la Federcalcio evitare rimostranze velleitarie che non avrebbero restituito agli azzurri i giorni di riposo. Non è che i problemi nascono quando ci riguardano, era opportuno pensare prima a calendari più saggi e sarà doveroso che l'UEFA ci pensi per il futuro. Il danno però è oggettivo e insomma lo sapevamo anche prima, è toccata a noi, questa è l'unica differenza. Così la Gazzetta dello Sport. E se i giocatori di riposo ne hanno avuto poco, sembra che davvero pochissimo ne avranno i leader europei, perché ieri sera Monti ha detto tratteremo ad oltranza per l'euro, entro lunedì una soluzione deve arrivare. Domani sarà anche il giorno del vertice europeo a Bruxelles, anche qui in qualche modo quella che è stata definita una sfida Italia-Germania, anche se per la verità anche il ruolo della Francia nelle ultime ore sta diventando sempre più cruciale. Allora anche qui carrellata di titoli. La Repubblica, Monti, salvare l'euro a ogni costo, trattativa ad oltranza. La Stampa, Monti-Merkel, sfida per l'Europa. Corriere della Sera, Monti, tratterò a oltranza. Il Messaggero, scudo anti-spread, si tratta. Il Sole 24 Ore, eccola qui la Merkel boccia il piano salva euro. C'è ancora la cancelliera tedesca con i suoi no a frenare la trattativa. Il Avvenire, questa mattina il titolo, Monti media, Merkel no, muro del cancelliere ai debiti in comune, gli eurobond mai finché sono in vita. Ed è da qui che si partirà domani il vertice. C'è stato anche ieri sera a Parigi, ma è arrivato l'ennesimo no della Merkel agli eurobond, che sarebbero poi la condivisione del debito di tutti i paesi, non più con i bond dei singoli paesi, ma un bond globale dell'Europa, una idea che non piace alla Germania. La fede del professore, convincerò a Berlino, è però il retroscena che questa mattina pubblica la Stampa, a firma di Francesco Bei. Si alza la cappa su Roma, Mario Monti intravede finalmente qualche segnale positivo, il Premier appare ai suoi interlocutori più disteso dopo giorni che, confessa egli stesso, sono stati nerissimi. ultimi, insomma, anche Monti sembra vedere una via. Quale? Come? Questo è tutto da vedere. Lo spariglio del professore, titola il quotidiano La Stampa invece nel suo commento. Ce ne sono molti oggi sui quotidiani, potete sbizzarrirvi, ci sono retroscena, commenti, analisi, un po' insomma tutto quello che prepara questo vertice. Preparati al peggio, ecco come bisogna sentirsi, leggiamo Marcello Sorgi dalla Stampa. Alla vigilia del vertice europeo di domani venerdì, Monti lo ha detto chiaramente ai leader ricevuti ieri a Palazzo Chigi e lo ha ripetuto con qualche cautela in più ai parlamentari della sua maggioranza. Bisogna prepararsi anche al peggio. Tratterò al tranza, dicevo, il titolo del Corriere della Sera, avviso a Berlino e appello ai partiti per le riforme. Questi sono i due fronti sui quali Monti sta lavorando. Domani il vertice, la Merkel apre, ma dice no agli eurobond, Berlusconi parla di indeterminatezza. Il biglietto per Bruxelles di Massimo Franco, una stranissima maggioranza, il commento di oggi per il Corriere della Sera. Corriere della Sera che a centro pagina va anche al sodo delle misure sulle quali si sta lavorando. L'Europa ora discute il piano italiano per calmare lo spread e il sostegno ai titoli dei paesi virtuosi, così il Corriere della Sera. Sul tavolo europeo il piano italiano per frenare lo spread, che prevede tra l'altro sostegno ai titoli dei paesi virtuosi. C'è il pressing sulla Germania per convincerla a un atteggiamento più europeista. Italia, Francia e Spagna vorrebbero, come dicevamo, la condivisione del debito pubblico. Su questo la Germania dice no, le ipotesi sono quelle di appunto emissione di eurobond, ma anche un fondo europeo dove far confluire le quote superiori al 60% del PIL. Propongono per le banche una supervisione unica e garanzie su depositi centralizzati, quindi europei. Sollecitano un più ampio più uso del fondo salva stati per aiutare i paesi con maxi debiti sotto attacco della speculazione. Queste sono le misure, il cuore di quel che si discuterà a Bruxelles. C'è anche l'altro fronte, quello interno, dicevamo. Allora ecco il Messaggero che a questo ti dedica il centropagina. Monti appello al Parlamento, Berlusconi però attacca ancora, l'ex premier parla di indeterminatezza. Tra le altre cose Berlusconi ieri ha anche detto che se dovesse esserci un governo Alfano lui farebbe il ministro dell'economia. E a parlare è stato però anche Casini, che dice ora lo temo il voto anticipato. La Merkel però va avanti. Allora al Sole 24 Ore boccia il piano salva euro ecco l'analisi o quantomeno i dati che ci sono dietro la Merkel, vale a dire nell'economia poi della Germania, perché le imprese tedesche sono invece favorevoli all'euro, scrive oggi il Sole 24 Ore. Non si scherza col fuoco, il commento sulla prima pagina questa mattina del Sole 24 Ore, un appello alla Merkel. Signora Merkel, a che gioco stiamo giocando? Le sue inspiegabili rigidità alimentano i peggiori sospetti, vuol forse cuocere l'euro a fuoco lento, come sembra suggerire la copertina del rapporto di Roland Berger sulla Germania? Ci permettiamo di consigliarle una sua rapida lettura. Scoprirà che l'immagine è solo una provocazione, che meno di un'azienda tedesca su 10 ritiene che l'euro si possa rompere. Le sue grandi imprese scommettono sull'Europa, mai l'Italia che di colpe ne ama, i suoi compiti li sta facendo, è citata come un problema. L'Europa non ha bisogno di nuovi diktat, ma di leader che costruiscano una vera unione politica. Il dividendo della storia vale di più, molto di più di qualsivoglia calcolo elettorale. Giocare con l'euro oggi è un po' come scherzare col fuoco, si rischia di rimanere scottati. Non si scherza col fuoco. Deciso questa mattina il commento su il Sole 24 Ore. E intanto la politica cosa fa? Dicevamo, l'appello al Parlamento di Monti, un Parlamento certamente non unito. Ieri è stato dato il mandato a Monti per andare in Europa, ma i partiti non si sono presentati compatti. E allora ve lo anticipavo nelle anticipazioni di prima edizione sulla Repubblica, ecco che succede anche questo, un retroscena firma di Filippo Ceccarelli, che però qualche dubbio lo lascia. Io ve lo dico, se ci volete far stare qui fino al 12-13 di agosto sono problemi vostri. A quel punto ve la dovrete trovate voi una maggioranza. In bocca al lupo. Con queste parole, un tono sbrigativo, secondo l'agenzia Dire, ieri pomeriggio a Montecitorio il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto si sarebbe rivolto al ministro dei rapporti con il Parlamento Piero Giarda. Insomma, l'onorevole minaccia, questo è il titolo della Repubblica, ferie ad agosto o è crisi, qualunque cosa, ma lasciateci andare in ferie. Questo sarebbe il messaggio arrivato intanto dal Parlamento. Questa, la politica, l'attesa per il vertice europeo, gli europei di calcio sono insomma le notizie che dominano sicuramente sulle prime pagine dei quotidiani. Avremo occasione per vederle come sempre anche più avanti con Alessandro Milan 7:20. C'è l'altra notizia che molto ha colpito, di quel che è successo in Toscana ieri, e sono un po' le immagini che quasi tutti i quotidiani hanno scelto per la loro prima pagina. In questo caso leggiamo ancora dalla Repubblica: gita sotto il sole, muore un bambino di 11 anni durante l'escursione della parrocchia, altri ragazzi colti da malore. Così anche per La Stampa, così anche per Il Messaggero. Decine di bambini, leggiamo dal Corriere della Sera, hanno camminato per ore durante l'escursione su un monte. I bambini più piccoli, di 6 anni, hanno camminato insieme a tutti gli altri. Alla fine è costata la vita a un bimbo di 11 anni. Sarà stato il caldo, sarà stata la troppa fatica. La Procura di Prato sta indagando. Di sicuro la storia ha decisamente colpito tutti. L'immagine sulla prima pagina del Corriere della Sera è anche un'altra questa mattina: la promessa del Papa ai terremotati, Benedetto XVI, che ieri è stato in Emilia. Non resterete soli, ricostruire come nel dopoguerra. Queste le parole ieri di Papa Benedetto XVI. 6:27 minuti 30 secondi, abbiamo ancora tempo per un'ultima curiosità prima di lasciare i quotidiani di oggi. La megalopoli del cielo, leggiamo dal fondo pagina della Repubblica. Vogliamo sempre di più per spostarci. Allora c'è chi ama i numeri e ama raccontare quel che succede anche con i numeri, una sorta di nazione in eterno movimento. 7,6 milioni di abitanti, mai gli stessi, senza case o strade, volano nel cielo. La megalopoli del cielo, così scrive questa mattina la Repubblica, che si è presa la briga di contare in quanti in ogni minuto siamo, noi siamo qui con i piedi ben piantati per terra, ma insomma in quanti stanno volando anche in questi minuti, una sorta di megalopoli del cielo. Questa è la curiosità di oggi, a chiudere la nostra carrellata come sempre delle prime pagine. Ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo alle notizie di oggi. 6:37 minuti, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione per questo mercoledì, l'ultimo di questa stagione di prima edizione, l'ultima settimana per noi, chiudiamo con il mese di luglio, ve lo sto anticipando un po' in questi giorni. Un dramma, un caso forse quello che è accaduto ieri in Toscana, la storia la conoscete, cioè ne abbiamo parlato anche poco fa in rassegna stampa, ne abbiamo parlato anche in GR24, un ragazzo di 11 anni morto sotto il sole durante un'escursione parrocchiale sull'Appennino toscano, colto da un arresto cardiaco, pare per il caldo. Di certo dicevamo forse un caso, un brutto caso, ma un dato c'è del caldo che non va sottovalutato, e caldo che continuerà, perché dopo Scipione è in arrivo Caronte, e al di là dei nomi suggestivi è davvero un'estate bollente, o siamo nella media e siamo come alle solite che ci facciamo prendere dal panico per il caldo? Insomma, che succede? Io saluto il colonnello Mario Giugliacci, meteogiugliacci.it, buongiorno. Sì, buongiorno. In effetti non è un caldo eccezionale. In una normale estate ondate di caldo di questo tipo sono normali, quindi 2 o 3 ondate con temperature superiori a 35 gradi sono la normalità. Una normalità sarebbe un'ondata di caldo che duri 20 giorni con temperature di 40 gradi, ma nel nostro caso questa nuova ondata che sta per arrivare durerà fino al 2 al nord, fino al 5 al centro-sud, e non sarà eccezionale perché non raggiungerà da nessuna parte i 40 gradi, o almeno se lì raggiungerà in diciamo in forma isolata, due o tre casi che posso dire, non di più. Le regioni più interessate saranno l'Emilia, Basso Veneto, l'Umbria, Lazio, la Puglia. Saranno risparmiate anche questa volta le regioni di nord-ovest, le isole maggiori, la Calabria. La punta del caldo sarà tra il 30 e il 2, quando sul 70% della penisola verranno superati i 34 gradi. Quali saranno le regioni più colpite in questi giorni, cioè tra il 30 e il 2? Bene, le regioni più calde il 30 saranno l'Emilia, il Trentino, l'Umbria, il Basso Veneto, la Lombardia, con punte di 36-37 gradi. Il giorno 1 saranno l'Emilia, la Romagna, l'Umbria, il Mantovano e il Basso Veneto. Chiedo scusa, ma sono le 6:40 un po' per tutti. La bocca impastata. Sono le 6:40 un po' per tutti, per i nostri ascoltatori prendete nota. 37-39 gradi e poi il giorno 2, ultimo giorno di caldo intenso, la Puglia con 36-37 gradi. Quindi, ultimo giorno di caldo intenso, colonnello Giuliacci, non ci dica che poi a luglio viene di nuovo la pioggia, il brutto tempo, quando saremo forse sulle spiagge? Ogni ondata di caldo in genere finisce perché arriva una serie di temporali, e così sarà per questa ondata di caldo, perché tra il 2 e il 3 di luglio arriveranno dei temporali sul nord Italia, ma solo sul nord Italia. Poi il resto dell'Italia invece verrà solo fresca corrente atlantica che percorreranno un po' di respiro, penisola, un po' di respiro. Ecco, e toglieranno il caldo da tutta la penisola. Allora, sono le 6:40 per tutti, spero che i nostri ascoltatori abbiano preso nota, se no c'è il podcast, se volete risentirlo, è una mappa precisa, quella del colonnello Giuliacci, temperature, come, dove, se dovete spostarvi, organizzare i prossimi giorni. Senta, questo Caronte, siccome ormai ci stiamo appassionando ai nomi e alle specificità, sarà un po' diverso, sarà vento caldo? Che succede? Cos'è questo Caronte? Questi nomi per i quali sono contrario, non le piacciono, ormai lo sappiamo. Il suo nome, il suo centro volesse dare il suo nome, immagine che confusione verrebbe fuori. È il famoso anticiclone nordafricano, cioè è un'alta pressione. Quello che abbiamo sempre sentito tutti gli anni. Esattamente, che dal Nord Africa si allunga verso l'Italia. Essendo nordafricano, ovviamente, che tipo d'aria deve sospingere verso l'Italia? Aria che proviene direttamente dal Sahara, e quindi aria caldissima, che caldissima in senso, diciamo, relativo. In questo caso le temperature aumenteranno di 5-6 gradi su tutta l'Italia per l'arrivo di quest'aria più calda. A differenza dell'anticiclone invece delle Azzorre, perché quando arriva l'anticiclone delle Azzorre porta anche lui il bel tempo, ma porta invece fresche correnti atlantiche, per cui non si va al di là dei 30-31 gradi. Oggi, domani e dopodomani ancora saremo sotto il presidio gradevole dell'anticiclone delle Azzorre. E poi Caronte, anche se so che mi bacchetta perché il nome non le piace. Grazie. Virtualmente allora le offriamo un caffè a quest'ora. Grazie. Del mattino. No. Grazie per essere stato con noi, il colonnello Mario Giuliacci. Buona giornata. E allora, mi raccomando, avete preso nota, questo è quello che ci aspetta, però anche un'altra promessa da mantenere, torniamo a fare ancora un po' di zapping TV da ieri sera, chiudere Ballarò, l'abbiamo già sentito in prima edizione, questa mattina c'era un ospite, e allora vi faccio sentire il governo tecnico secondo Roberto Benigni. Visto che lei è un appassionato di Dante, sì, bene. Le faccio qualche nome e mi dice dove li metterebbe, in Dai. Quale girone. Allora, il ministro Fornero. Fornero, diciamo così, la metterei a fare i conti di quanti ce n'è nell'inferno. Secondo l'Inps 380.000, secondo la Fornero, un pochino quanti canti dell'inferno solo. Secondo l'Inps 100, secondo la Fornero 10. La Fornero, diciamo così, no? Lei, insomma, tutto il governo tecnico. ha una sua, anche lei è proprio il ministro del lavoro, il ministro del lavoro, che io vorrei fare una breve cosa romantica sul lavoro. Io ho una visione del lavoro veramente romantica, che è quello che dà la nostra identità. Se non c'è lavoro, la democrazia non c'è più, è la base, è un sacrilegio che la gente non lavori, si devono occupare di far lavorare, tu mi dirai, sì lo sanno, ma è più grande di quello che noi si pensi, ci vuole proprio, perché quando uno riceve la ricompensa, una persona, l'umanità, non è che trova solo i soldi, trova una cosa più misteriosa nella ricompensa, trova se stesso, la nostra identità sta lì, ci si sente indipendenti dall'universo intero, si cresce, si matura e si è uno stato libero, democratico, è dal lavoro proprio che nasce tutta la... E quindi chi risolve questo problema lo metterà in paradiso. E Monti dove lo metterebbe? Monti dove lo vogliamo mettere? Ma Monti è da purgatorio, Monti sarebbe da paradiso per me, per carità, io lo stimo Monti, però il purgatorio è proprio un canto tecnico, hai capito? Dolce, dolcissimo, tecnico, educato per bene, e serve a riparare i guasti dell'inferno, così come Monti a riparare l'inferno che abbiamo creato, capito? Qui non bisogna guardare al futuro, perché il passato è morto, questo presente lo stiamo ammazzando, non ci rimane che il futuro, se arriva, perché viste le premesse quello fa, ma voi trattate la gente così? Purgatorio per Mario Monti, forse davvero in vari sensi. Così Roberto Benigni ieri sera a Ballarò. Domani si apre il vertice europeo, quello che abbiamo più volte definito cruciale nell'estate calda dell'euro, come andiamo ripetendo a Radio 24. Allora, con quale forza ci arriverà Monti? Ne parliamo tra poco. Ci sono alcuni stati membri ad avere un Parlamento e altri no. Non ci sono alcuni Stati membri ad avere una Corte Costituzionale e altri no. Credo che oggi, in un momento così intenso e carico di preoccupazione per il futuro dell'Unione Europea, sia importante che l'Italia arrivi al negoziato del Consiglio Europeo, difficilissimo, con la forza di un tandem governo-parlamento, di un sistema paese, di un motore unico che spinge con maggiore forza la politica europea a muovere nella direzione auspicata. Così l'appello del Premier Monti, che come sentivamo poco fa Benigni mette in purgatorio, ci arriverà. Intanto si parla già anche di elezioni. Io saluto Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come la vedi? Come le vedi queste ore per Monti? Ieri sera c'è stato l'incontro con Berlusconi, questa sera ci sarà con Bersani. C'è da dire che anche il fronte interno non è facilissimo. No, non è facilissimo, però guarda, io penso che i problemi di Monti sul fronte interno sono molti, perché è una realtà politica complessa e molto frantumata. Però i problemi di Monti, che rendono anche così drammatico quel suo discorso di ieri in Parlamento, riguardano evidentemente quello che succederà a Bruxelles, il rapporto con la Germania, la questione di come e di cosa otterremo al tavolo di questo vertice. Probabilmente non otterremo molto, ma bisognerà tenere aperto un filo, questa è la cosa importante. Penso che il 4 luglio la Merkel sarà a Roma per un bilaterale che forse è altrettanto importante del vertice delle prossime ore. È questo che rende cruciali queste ore, questo passaggio, ed è questo che davvero preoccupa Monti. Del fronte interno seguirà, seguirà, perché io non credo che si voglia veramente sfasciare il paese e andare alle elezioni anticipate. Non è un gioco un po' pericoloso però in queste ore? È un gioco pericoloso, molto pericoloso, ma guarda, io ti arrivo a dire con un filo anche di paradosso, se vuoi, che in qualche misura questa situazione difficile sul piano interno può persino rafforzare Monti al tavolo del negoziato europeo, perché lui ha bisogno di dimostrare che l'Italia o ottiene qualche risultato o si fa qualche passo avanti, non verso gli eurobond che sono impossibili in questo momento, ma verso una condivisione della solidarietà europea in ordine ai paesi che hanno fatto il loro dovere sul piano economico come l'Italia, ma che sono in grande difficoltà. O si fa un passo avanti in questa direzione, oppure vi potrà dire al tavolo europeo: il mio fronte interno non regge, Io non credo che la Germania possa avere interesse in questo momento alla destabilizzazione dell'Italia. E tutto sommato è forse davvero uno spauracchio per la Germania, un'Italia instabile. Penso di sì, e Monti giocherà questa carta. Non si scherza con il fuoco, è il commento durissimo questa mattina sul Sole 24 Ore, rivolto alla Merkel. Delle parole poi si abusa, Stefano, è cruciale, l'abbiamo usato, colpa anche nostra, davvero tantissime volte. Questa volta però è davvero cruciale, da qui bisogna uscire, se non con i risultati concreti, come dicevi tu, con una svolta, per forza, non c'è altra via. Con una direzione di marcia che sia tale, che sia abbastanza credibile da convincere i mercati, che siamo sempre lì, il nostro giudice supremo alla fine sono i mercati lunedì mattina, è questo che bisogna fare, bisogna che l'Europa esca, se non con un risultato preciso, e non sarà naturalmente, perlomeno con l'indicazione che l'euro è davvero irreversibile, come ha detto Monti l'altro giorno, che i paesi che compongono l'eurozona si sentono parte di un destino comune. Ecco, questo è fondamentale. Se non ci sarà nemmeno questo, se prevale davvero soltanto l'egoismo nazionale, allora saranno dolori. E in questo caso l'aggettivo cruciale ha un suo senso. Io per la verità cerco di usarlo anche poco, però in questi giorni l'ho usato perché credo che siamo davvero a un passaggio difficile e definitivo della nostra storia europea. Un pezzo di storia quello che si scriverà nei prossimi due giorni, su questo tutti sono d'accordo, vedremo allora che succederà, naturalmente ve lo racconteremo passo passo. Grazie nel frattempo, grazie Stefano Folli, grazie, buona giornata, buon mercoledì anche a te, buon mercoledì a tutti, siamo al termine di prima edizione, tra pochissimo ci risentiamo con GR24 per la stretta attualità, grazie a Carmelo Lauricelle in regia, a tra poco, buona giornata da Anna Migliorati.